Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Come hanno annunciato poco fa i colleghi del giornale radio, dedicherò tutta questa puntata di Melog alle voci degli ascoltatori, in particolare di quelli che vivono, che in questo momento si trovano nella zona in Italia toccata l'ambito e devastata dal terremoto. Vorrei dare voce soltanto alle voci degli ascoltatori e non agli esperti, anche perché gli esperti in queste circostanze, lo sappiamo bene, lo sappiamo per esperienza, è facile che si contraddicano. Quello che oggi dice un esperto, un sismologo, un geologo, anche uno psicologo. Questa mattina mi segnalano che in un'altra radio, non la nostra, parla una psicologa e dice come bisogna contenere la paura, cosa bisogna fare, cosa bisogna pensare. Chi può dire da fuori, pur supportato dalla sua scienza, dalla sua sapienza, quello che occorre fare, che bisogna fare, come ci si sente in un momento in cui la terra si rivolta? Io ho un'esperienza personale di terremoti, essendo umbro e essendo naturalizzato per momenti vacanzieri abruzzese, diciamo che ne ho sentiti sulla pelle due, quindi so esattamente quello che accade quando la terra trema, e quindi vorrei che lo raccontassero le persone che l'hanno sentito, senza sovrastrutture, senza interpretazioni. Io vi posso dire quelle che sono le mie suggestioni legate a questo particolare terremoto. Intanto potete chiamare all'800240024, qualunque sia in questo momento la vostra latitudine, sia che vi trovate in terra terremotata, sia che ascoltate la radio, perché in questo momento non c'è altro da fare, perché intorno a voi tutto è fermo, tutto è devastato, tutto è destinato a contenere l'emergenza. Se vi troviate nelle vostre felici terre non toccate dal terremoto e osserviate la lettura mediatica di questo fenomeno, molto nuova, molto singolare. Ieri sono entrati in azione i droni, ieri il telegiornale della 7 con Enrico Mentana aveva i droni che venivano continuamente richiamati, pubblicizzati anche dalla ditta, dall'azienda che li forniva. Questi aerei militari, di cui proprio in questi giorni c'è la polemica se debbano essere quelli italiani dotati o no di missili, sono gli incursori della zona terremotata. E allo stesso tempo c'è questa polemica, questa divertente rilancio di responsabilità: si farà o non si farà la sfilata del 2 giugno? Si farà, ma in maniera sobria, dice il Presidente della Repubblica, usando il termine sobrio, che è un termine ormai corrotto dall'ilarità e dalla cifra comica a cui è stata attribuita. Avremo i militari che sfileranno in maniera sobria, abbiamo i droni militari disarmati che riprendono la zona terremotata. E poi quali sono le fattispecie, le specifiche di questo terremoto? Mi hanno colpito vedere gli indiani col turbante sotto le macerie. Io conosco quella zona lì, so che ci sono intere aree dove i Sikh, questi fantastici signori col barbone, con il turbante, sono i più grandi allevatori. Nessuno si occupa più delle vacche e se ne occupano i Sikh. Sono intere zone con i loro tempi. Sembra che l'Emilia in alcune aree sia una regione dell'India. Beh, anche loro sono stati toccati dal terremoto. E poi la vicenda di Don Ivan, una vicenda che ha ampio spazio in molti giornali, il parroco di Rovereto che muore per salvare la statua della Madonna. Per qualcuno è un gesto sublime, per qualcuno dice ma vale la pena una vita umana per una statua fatta di gesso, magari fatta in serie, di cui ce ne sono altre migliaia. Beh, questo è qualcosa di molto legato a questa terra. Io ricordo un racconto, Giovannino Guareschi, che non a caso è di quella zona, in cui Don Camillo affronta l'alluvione per salvare il suo crocifisso, quello in cui ci parlava. È qualcosa di inspiegabile al di fuori di quelle latitudini, al di fuori di quello spirito legato alla terra, in cui anche la sacralità è qualcosa che va oltre il valore semplicemente esteriore di un'icona. Beh, di tutto questo vorrei parlare oggi con voi. 800 24 00 24. La casa è caduta completamente, fortuna che ero fuori, se no c'era da rimanere. Da 10 giorni che abbiamo sempre il cuore che batte forte, e poi vedere la mia mirandola così. Peggio anche delle due scosse precedenti, queste qui, perché 4-5 botti grossi si sono sentiti e abbiamo avuto molta, molta paura. Abito lì al 120, sono andata a chiamare i vigili del fuoco per farci scortare, perché non possiamo entrare, abbiamo dentro soldi, vestiti, tutto. Solo che può entrare uno alla volta, quindi adesso io sono qui che aspetto. Sì, la situazione è che hanno trovato tre corpi. 800 24 00 24. i terremoti sono tutti uguali perché tutti devastano. Le sofferenze per chi si trova al centro di un episodio sismico sono tutte uguali perché tutti soffrono. Ma vediamo di capire quali sono le specifiche in questo momento di questo terremoto e di questa gente colpita. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Sì, io chiamo da Livorno, sono musicista jazz e volevo intervenire in questo senso. Riguardo a questo terremoto, ma anche purtroppo alle altre calamità naturali purtroppo così frequenti in Italia, perché i media non danno dettagliate notizie, oltre che sull'agroalimentare, sull'industria e gli altri settori, sul settore dell'arte, la cultura, i musei, i teatri, le scuole di musica, di cui tra l'altro l'Emilia Romagna è così straordinariamente ricca? Noi vorremmo sapere che fine hanno fatto con questa situazione così brutta di distruzione le scuole di musica, i teatri, le chiese, i musei, i luoghi d'arte. L'Italia ha il più alto numero di siti sotto la protezione dell'UNESCO. Ogni volta che accadono queste cose, perché non ci informate dettagliatamente anche su questo aspetto? Ecco, era questa la mia domanda. L'informazione in questo senso c'è stata, chiaro, in tono minore, quando ci sono ancora i morti sotto le macerie, l'urgenza è riferire sulle vite umane, ma ci sono state notizie sui grandi patrimoni desolati, su Mantova, su quello che è successo a Mantova, su quello che sta succedendo nelle varie chiese, nei campanili, che sono la vera ricchezza e anche il vero catalizzatore, anche se è una terra laica, il campanile comunque in suo senso, che sono caduti, le chiese, ho parlato poco fa del parroco che muore per salvare l'icona della Madonna, e anche questo è qualcosa. È chiaro che poi ci sono delle priorità, verranno anche queste informazioni. Sulle scuole di musica apre un discorso interessante lei, un discorso che probabilmente in questo momento non è l'emergenza numero uno, ma è vero, quella è una terra molto prolifica dal punto di vista della creatività, della tendenza. E cosa faranno queste persone? Probabilmente potranno continuare a suonare, magari saranno a suonare e cantare, saranno l'anima di conforto per quelli che dovranno stare un tempo, probabilmente non certo breve, ad aspettare qualcuno si occupi del loro problema. Raffaella Calandra, buongiorno. Buongiorno a te. Raffaella, l'inviata del giornale Radio 24, si trova in quella zona. Rubo un po' del tuo tempo perché non potevo fare a meno di avere qualcuno che mi raccontasse proprio il sentire sul posto. Da quanto tempo sei lì te innanzitutto e dove sei? In questo momento io mi trovo a Medolla, davanti alle rovine della fabbrica di Emotic, dove si stanno cercando ancora le tre persone che mancano all'appello, tre operai. Io sono arrivata ieri dopo la prima scossa delle 9 e ho visitato un po' tutti quanti questi paesi del cratere Mirandola, Corbezzo, Novi, questi paesi che, come dicevi, sono davvero rimasti senza il loro passato, crollato appunto con le scosse, senza le loro chiese, perché il Duomo di Mirandola non c'è più, la parrocchia di Rovigo non c'è più, senza le case e anche senza moltissime delle aziende che rappresentano il loro tessuto economico e produttivo. Ora proprio però qui davanti a queste macerie si sta cercando a fatica di individuare questi tre operai che ancora mancano all'appello e sono rimasti schiacciati da questi si sono accartocciate su se stesse quando appunto ieri la terra ha tremato. Ecco Raffaella, tu hai messo giustamente l'attenzione su due punti fondamentali: la mancanza di una centralità di aggregazione civile, le chiese, anche se ho già detto è una terra laica, però fortemente rispettosa anche di chi ha dei valori che trascendono l'aspetto materiale e concreto, e la fabbrica. Quindi manca il campanile, la piazza e la fabbrica. Il senso generale che tu hai colto nelle persone, attraverso anche il filtro della tua esperienza di inviata in altre occasioni simili, c'è una particolarità, c'è un segno, se vogliamo dire, regionale, umano, legato a questo terremoto rispetto agli altri? Beh, sicuramente c'è il senso della, che però è una nota caratteristica un po' di tutti i terremoti, quella della perdita proprio dei punti di riferimento, come anche già all'Aquila e forse ancora di più andando nei campi dove ad esempio stanotte tutti gli sfollati hanno dormito. Ecco, noti soprattutto dalle persone più anziane quel senso di spaesamento a sentire appunto che la chiesa è crollata, che le loro case sono inagibili. Rispetto a questo territorio è forse l'operosità di queste aziende che è stata anche così simbolicamente colpita nei crolli degli mai, ma anche lo sconcerto, perché c'è un altro punto che sembra emergere guardando ora questi capannoni, anche recenti, bisogna dirlo, che sono crollati, che forse non si aveva la percezione di trovarsi in una zona così fortemente sismica. Evidentemente, poiché anche gli ultimi terremoti seri vanno indietro nel tempo di molti secoli, quello del 1500 di Ferrara, si raccontano appunto gli esperti di geofisica, evidentemente questa zona non pensava di convivere con un rischio così alto come invece, ad esempio, io arrivo dal sud Italia e nel sud si ha un po' questa sensazione di vivere nel pericolo. Qui invece non c'era, e questo forse sta colpendo e sta disorientando ancora di più i sopravvissuti, ma forse è anche una delle cause delle vittime, se gli operai soprattutto che sono morti in questi capannoni. Evidentemente, adesso ci diceva, così si è lasciato un po' sfuggire, un investigatore che ad esempio questi capannoni non avevano le travi con i pannelli e il resto delle varie componenti legati tra di loro, come invece accade nelle zone sismiche. Era obbligatorio farlo, oppure, e questa è la domanda, in una zona che è a basso rischio sismico questi non sono dei vincoli così perentori? Chiaramente ci sono le indagini, ecco, però la percezione è che la popolazione non avesse il sentire di vivere in una zona ad un rischio sismico. Certo, queste sono tutte le valutazioni che poi si faranno con il tempo. È chiaro, hai detto molto giustamente, l'Abruzzo, l'Umbria, alcune zone del meridione d'Italia, il terremoto fa parte della storia, ci sono i nonni che raccontano i terremoti, la gente dell'Aquila aveva ancora i racconti dei nonni del terremoto di Avezzano, quindi sapeva di stare su qualcosa che da un momento all'altro poteva esplodere, e nonostante quello si sono costruite in maniera scellerata scuole, abitazioni senza nessun criterio. Ma in realtà nell'Emilia, nella zona in cui ti trovi te, erano veramente dal 500 che non c'erano terremoti. Tra i tanti problemi, l'ultimo poteva essere quello della terra che tremasse. Forse questo forse è la ragione dello sconforto e della situazione di totale smarrimento che c'è adesso. Senti Raffaele, io non ti voglio portare via altro tempo, ti lascio al tuo lavoro, ma lascio fino alla fine della trasmissione possibilità di entrare ogni momento quando tu vorrai in questa trasmissione. Io mi intratterrò soltanto con gli ascoltatori, non avrò nessun altro esperto che non te, che sei da quella zona. Se vuoi raccontarci altre cose, aspetto, ti chiamiamo o ci chiami senz'altro tre. Grazie mille Raffaella. Grazie a te e ai nostri ascoltatori. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Come dicevo prima, io ero giù, io sono autista, ero giù vicino, diciamo, verso Anzola, l'Emilia, stavo scaricando in un capannone di, diciamo, dei supermercati, insomma. Beh, io la scossa l'abbiamo sentita molto bene, ma molto forte. Cioè c'è stato un via vai di gente che correva, gente che piangeva, c'era il capannone, ondulavano. Cioè io parlo come... Non è caduto niente, fortunatamente, però parlo come sentimento. A me mi è venuto un, come si può dire, un'ansia e una paura, un coso dentro che ti stringeva lo stomaco, una cosa brutta. L'impressione anche lei ha avuto che nessuno si aspettasse qualcosa del genere, sì, che fosse il capannone che ondula e si muove e quindi mostra la leggerezza, la sua struttura. È un capannone che non è stato mai pensato per essere attraversato da una scossa sismica, probabilmente. Poi un'altra cosa, poi hanno fatto rientrare la gente anche subito, secondo me non hanno sbagliato. Poi parlando sui capannoni, secondo me i capannoni, al di là che ci sia sismico o meno, devono essere fatti, perché la terra si sa che trema, quindi non è che perché uno è più, uno è meno, devono essere fatti tutti così, allegati per forza. Vabbè, grazie. Salve. Grazie a lei Lorenzo. Claudio. Buongiorno, allora io sono un fondatore della Misericordia del mio paese e ho vissuto nell'80. Che significa terremoto... fondatore della Misericordia, mi scusi? Della Misericordia di Erola. Ah, mi ricordo, cioè diciamo dei volontari che si occupano, sì, di assistenza, di soccorso, esatto. Assistenza, io ho vissuto il terremoto dell'80 e quindi per questo motivo abbiamo fondato poi all'epoca questa associazione, perché abbiamo vissuto, come lei pensa, in Campania uno dei disastri più grossi forse che si è vissuto nella nostra nazione, e appunto l'alluvione di Cervinara, che fu abbastanza terribile dopo quella di Sarno. L'unica cosa che volevo dare io come consiglio, so bene che il terremoto è una delle cose che fa più paura, perché l'abbiamo vissuto in prima persona, è una cosa che crea panico sicuramente. Anche perché non finisce mai, l'alluvione a un certo punto si ritira l'acqua. Sì, ma esatto, il terremoto anche... dura mesi, non si sa quando finisce lo sciame. Esatto, c'è sempre la paura. La cosa importante è questa, che la gente sappia almeno debba frequentare dei corsi presso le nostre associazioni, semplicemente per capire che la loro prima, diciamo, prestazione, il loro primo intervento è fondamentale, anche se c'è paura, però saperlo fare in modo giusto, perché il problema è che in molti casi la fretta di voler portare soccorso a qualcuno può portare ulteriori disastri, e purtroppo l'intervento delle associazioni in molti casi non può essere istantanea, come per esempio è successo per la prima volta all'Aquila, che è stata una delle dimostrazioni di, diciamo, intervento preventivo più esemplare che abbiamo avuto in Italia e forse nel mondo. Sì, però l'Aquila è ancora una maceria tale quale, certo, che è il centro storico. Grande, certo, intervento preventivo, ma certo, oggi all'Aquila, anzi, stanno con l'angoscia ulteriore, dire questo ulteriore terremoto farà sì che di noi saranno proprio dimenticati, perché c'è un nuovo terremoto che forse mette in ombra quello vecchio. L'Aquila è ancora lì, se la vedere, il centro storico è una maceria continua, e è una situazione disastrata in tutta la regione. Certo, questo è vero, però l'unica cosa che bisogna capire è che questa nazione purtroppo, io mi ricordo negli anni 80 c'era un geologo che già parlava per televisione Rai, e mi ricordo disse: questa è una nazione che molti politici non sanno, ma è tutta disastrata geologicamente, quindi bisogna essere molto preventivi sotto questo aspetto. Non lo hanno mai rispettato questo modo di ragionare. Diciamo che non viene considerata un'emergenza possibile il fatto che noi siamo un'intera nazione a rischio sismico, e si aspetta sempre che sia l'emergenza a poi a suggerirsi quello che bisogna fare. Lei dice giustamente, ci vorrebbe un'informazione più attenta su quello che bisogna fare in caso di emergenza, le prime necessità, i primi soccorsi, le aree di raccolta, dicendo non c'è un piano sismico efficiente e osservato in tutta Italia. Grazie Claudio. Giuseppe. Buongiorno. Senta, io sono di Formigine, provincia di Modena. Noi abbiamo sentito molto la scossa, però per fortuna dei danni non ce ne sono. Però quello che volevo dire io c'ho un mio amico a Sorbara, praticamente a 3 km da San Prospero, e lui sono 10 giorni che dorme fuori. Io l'ho invitato più di una volta, viene a casa mia a dormire, e loro ti rispondono: no, noi abbiamo paura dello sciavallaggio. È questo che è la vera paura di quei poveri cristi, che oltre la beffa, cioè oltre il danno, prendono anche la beffa. Ma perché lei risulta che ci sia questo fenomeno, cioè le persone non vogliono abbandonare le loro case perché pure qualcuno venga a rubare. Ecco, lei risulta che esista anche questa paura degli sciacalli. Allora, questo mio amico abita in una zona strada chiusa, quindi non è via di passaggio, quindi bisogna andare a forza lì, perché dopo la strada è chiusa. In zona terremotata, lei sta dicendo, naturalmente. Sì, a Sorbara, 5 chilometri da Mirando a linea d'aria. Lui mi dice: questo qui è una strada chiusa. Io ho visto in questi giorni, perché sono 10 giorni che dormo fuori, ho visto gente mai vista che viene a girare qua. No, ho visto gente, ho visto dei rom, ho visto di tutto, ho visto degli italiani che vanno a girare lì a guardare, però non abitano lì. Cioè questa è la loro paura che hanno, capito? Questa è una cosa di cui è stato parlato poco. In realtà si guardano sempre gli aspetti legati all'emergenza, ma chi vive lì, chi lascia le case, molte volte sa... Una casa viene abbandonata d'imperio perché si dice che è pericolante, uno dice: ma non c'ha nulla, c'è una piccola crepa, potrei dormirci, ma logicamente chi è responsabile della sicurezza dice: no, in questa casa non ci puoi dormire, e uno esce e lascia tutto dentro, gli sembra un delitto, dice: guarda, è tutto a posto, potrei dormirci, ma resta fuori, dorme nella tenda, dorme in una situazione di fortuna. E pensare, immaginare che qualcuno con meno scrupoli possa entrare, violare casa sua, impossessarsi dei suoi oggetti o perlomeno mettere il naso le sue cose, può essere un'angoscia, e l'ascoltatore Giuseppe ci ha identificato, ci ha indicato anche questa ulteriore angoscia delle persone terremotate. 800 24 00 24, ci fermiamo per le informazioni della borsa, riprendiamo tra un istante, e chiamate sia dalla zona terremotata sia da tutta Italia, esponete il vostro parere, la vostra impressione, le vostre riflessioni su questo avvenimento. Melog, la realtà condivisa. Questa mattina ho dedicato l'intera puntata alle voci degli ascoltatori, alle loro riflessioni, alle loro impressioni sul terremoto che ha sconquassato l'Emilia Romagna. Perché mi interessa questo? Perché mi sono accorto, ma non da adesso, da molto tempo, che in realtà il pubblico di questa radio è un esempio significativo, è una parcella interessante di quella che è l'opinione generale di questo paese. Quindi usando quelli che sono i vostri pareri, per quanto voi possano sembrare singoli, singolari, personali, non rappresentativi, in realtà abbiamo uno spaccato interessante di quello che passa come opinione, come pensiero, come punto di vista nel nostro paese. Marco, buongiorno. Buongiorno. Senta, buongiorno a tutti, anche a coloro che, che l'hanno preceduta, vedi Milan, Giannino, che state facendo un lavoro ottimo. Facciamo il nostro lavoro, né più né meno. Ma è comunque è importante. No, io non ho una testimonianza da dare. Da dove chiama lei, Marco? Chiamo da Milano. Non ho una testimonianza da dare, ma io vorrei solo fare una raccomandazione, non a voi, ma anche tramite voi, a ciò che... non vengano fuori i soliti, tra virgolette, professori a dirci che si poteva fare, che si poteva prevedere, che la colpa è di Tizio, di Caio e di Sempronio. Come vede, io ho ben evitato questa mattina di seguire questa strada, anche perché sì, esatto, sarebbe una strada facile, guardi, c'è la fila di comunicati stampa di enti, di università che stanno dandoci segnalazioni di loro esperti, ma in questa mattina mi sembra inutile, sinceramente. Esatto, è stomachevole, no, ci sono gli esperti veri. Sì, no? Ma in questo momento, secondo me, è un altro il punto di vista interessante, si faranno tutte queste valutazioni a posteriori, mi scoraggia un po' il fatto che nei terremoti, anche immediatamente precedenti, non abbiamo avuto nessuna certezza, nessuna lettura, nessuna possibilità di elaborazione di dati, è ancora tutto fermo. Prego, vada avanti. Certo, comunque quindi io vorrei veramente scongiurare mi lasci dire, la platea, di non aspettare la trasmissione video, radio di Vespa, così con i vari plastici, a spiegarci perché e per come, mentre invece concentrarsi sul fare, come ha detto anche in un intervento prima da Giannino, non mi ricordo bene quale signora rappresentante di quale categoria, forse degli imprenditori locali. Beh, sono quelli che in questo momento, esatto, hanno più. Io guardi, ieri ho sentito un telegiornale, una frase mi ha colpito. Intervistavano un imprenditore, ha detto, dice, cosa pensa di fare adesso? Cioè, domani mattina mi cerco un altro capannone perché non mi posso fermare. Esatto, quindi bisogna dare risalto a questo aspetto positivo del paese in un momento in cui noi siamo in gravi difficoltà, ma premiare questa cosa. È stato anche ricordato che un imprenditore, un ingegnere, un imprenditore è morto lui stesso ieri per cercare di far ripartire l'azienda. Quindi dobbiamo dare un'enfasi su questo, non sul piangerci addosso. Facciamo vedere che abbiamo, mi scusi l'espressione, ma tanto ormai c'è di avere le palle. Sì, sì, perfetto. Ecco, diciamo, la sua sintesi è mostriamo che abbiamo i coglioni, così almeno andato ancora, ho esasperato il suo termine. Mi sembra giusto. Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti e soprattutto che sia una buona giornata per i miei vicini, geograficamente parlando, della Bassa Modenese. Io chiamo da Correggio, che in realtà è una quindicina di chilometri in linea d'aria dall'epicentro, e a parte dire che mi sento fortunatissimo non saprei cos'altro dire, anche perché mi sembra di infierire. Io ho colto nelle varie telefonate diverse volte la parola angoscia, spaesamento. Beh, d'altra parte, a parte questa fortissima volontà di ricostruire che dobbiamo e stiamo mettendo in campo, ovviamente, come dicevano gli altri interventi. Io mi chiedo però, quando quell'imprenditore appunto della Bassa Modenese diceva io domani mi vado a cercare un altro capannone, io mi chiedo, quando sente Napolitano che dice no, il 2 giugno lo festeggiamo, sarà più sobrio, ma lo festeggiamo, e magari al buffet ci sarà il parmigiano di quell'area lì, o magari il lambrusco di quell'area lì. Quando leggi che la Fornero dice è successo solo lì, cos'è? È un mettere avanti le mani e dire oh ragazzi, l'avete fatto con la carta velina, poi adesso sono fatti vostri. Oppure quando senti l'istituto di geofisica e vulcanologia che alla mattina ti dicono bianco, alla sera è nero, di tutto e di più, capisco che non è una scienza perfetta. Beh, ma d'altra parte cosa ci aspettiamo? La nostra carenza strutturale nel supportare, nell'aiutare, nell'uscire da questi eventi tragici è prima di tutto una carenza culturale. Qualcuno ha detto dei nostri politici, ditemi dove c'è da sottoscrivere perché vengo a firmare. Purtroppo abbiamo una classe politica carente culturalmente in questi altri, come si può dire, fattori. Guarda Carlo, io le dico come la penso io. Innanzitutto il terremoto è una circostanza talmente singolare dal punto di vista della possibilità, perlomeno nel nostro paese, in paesi in cui è più ricorrente, fa più parte della prassi, quindi di tutte le possibili organizzazioni, è praticamente, se ne parla quando accade, tutto sembra che improvvisamente venga messo in campo sul momento in cui accade il terremoto, e quindi è sempre un dopo terremoto, non c'è mai una prevenzione, e quando accade la classe politica, logicamente, devo dirlo, ma lo dico con grande serenità, con grande leggerezza, senza nessun senso di risentimento, ne approfitta perché è anche una grande passerella, andare a passeggiare attraverso i terremotati, accarezzare i bambini, confortare gli anziani, fare le messe di suffragio per i caduti. Io ne ho viste tante, perché ho seguito tanti terremoti per il mio lavoro e anche per il mio interesse, anche per la mia avventura esistenziale. Quindi devo dire, esiste anche un lato positivo per qualcuno del terremoto. In questo momento particolare è stata anche una grande occasione per altri, perché non si parlasse di certe cose. Ieri erano molte le notizie importanti che improvvisamente sono diventate molto basse perché c'è stato il terremoto. Nel grande casino del terremoto, evidentemente, si evita di pensare e riflettere altre cose. Sul 2 giugno, l'ho detto anch'io, mi è sembrato un po' esagerato usare quel termine sobrio, fuori tempo, lo devo dire, quando il termine sobrio è diventata la cifra dello sberleffo che ha contraddistinto tutta la fase del governo Monti, quando Crozza, quando tutti abbiamo riso sulla sobrietà, dire ci sarà una parata sobria, sembra un controsenso. Come fa una parata militare a essere sobria? Come fanno i soldati scintillanti con le loro divise, con le loro fanfare, con le armi schierate ad essere sobri? Non c'è mai nulla di sobrio una parata militare, o si fa o non si fa. Antonio, buongiorno. Ah, buongiorno, io sono un piccolo imprenditore della provincia di Bologna, di preciso a Crespellano, una trentina di chilometri forse dall'epicentro del sisma, e ieri con la scossa delle 9 ci siamo presi una gran paura come tutti, tremava veramente il capannone, siamo usciti con quella dell'una ancora non la paura è aumentata, e adesso io ho mandato a casa ieri pomeriggio gli operai alle 5. Questa mattina li ho fatti venire alle 8 anziché alle 6, ma ho un dubbio, uno scrupolo. Il mio capannone non ha lesioni visibili, però è un capannone degli anni 70, come un po' ho visto per televisione, quelli che cadevano sono caduti. Cioè, io oggi mi sento male, mi sento abbandonato dalle istituzioni, perché nessuno ti dice cosa devi fare. Antonio, ecco, vediamo un po', io approfitto della sua presenza, della sua esperienza, così lei mi risponde a qualche mia domanda, a qualche mio dubbio. Esistono delle leggi precise per cui i capannoni in quella zona debbano essere fatti con caratteristiche antisismiche? Questo potrebbe esistere da alcuni anni, dal 2003-2004, sono vaderato per le abitazioni, ma per i capannoni sarà stata una cosa adeguata in questi anni, ma prima non lo era. Quindi lei ha fatto il suo capannone, o chi l'ha fatto per lei? Il capannone l'hanno costruito negli anni 70, ma l'80% dei capannoni della provincia di Bologna è degli anni 70, e sono tutti costruiti nello stesso modo. Quindi saranno degli ottimi capannoni adeguati per una zona in cui... Sono stati in piedi finora perché non c'era terremoto, ma con terremoto se sei vicino nelle zone del centro cadono tutti, non è che non ne cadono. Quindi lei dice giustamente, io sono lambito dall'area sismica, so che ci saranno degli sciami perché questo è chiaro, è naturale, è normale che accada. Siamo con i portoni aperti, col caschetto in testa ma il caschetto se casca una trave del capannone? Lo so, ma è il minimo sì. di garanzia che ti dai, però se succede veramente il disastro, sono io imprenditore che ho dei guai. Lei ha visto, diciamo, le riprese delle telecamere di sicurezza che vanno in televisione con gli operai che scappano via di corsa, che casca tutto? Ma certo, ma la stessa scena che io per primo ho fatto ieri con i miei operai, e ho cercato di tenerli fuori, e poi andiamo dentro e poi ritorniamo fuori. Cioè, però rimanere fuori cos'è? È un danno inestimabile per la vostra economia. Chiaramente la mia è una piccola officina di tornería, se non lavoro lei capisce che non si produce, oltre a perdere i clienti, oltre a perdere... Quindi non c'è risposta alla sua domanda, perché lei, nessuno le dice tielli fuori per legge, per sicurezza. No, nessuno me lo dice. Il mio senso civico e di forse amore verso le persone che lavorano con me è chiaro che mi fa vivere in ansia, perché io non so come potrei decidere a prendere un giorno una decisione che mi succede qualcosa. Quindi lei si è aggiustato a modo suo, teniamo le porte aperte, il caschetto, e Dio ce la mandi buona. Perché quanto dura non lo sai, che cosa devi fare non lo sai, nessuno ti dice niente, nessuno che possa in qualche modo, internet serve ma in questi casi non serve a niente, siamo collegati da mattina alla sera a vedere se ci sono delle segnalazioni, non ci sono. Questa mattina di mia iniziativa ho chiamato anch'io un ingegnere, dico vieni a vedere, a me sembra tutto a posto, però almeno, ma non serve a niente. Ma se lei ponesse la domanda alla protezione civile, venissero lì dei funzionari della protezione civile, il rischio è che le dicano no, guarda, per sicurezza tutti fuori. Ma normalmente, io ieri per televisione ho visto il presidente della protezione civile che diceva sicuramente non siamo noi che abbiamo dato il benestare a quel capannone che poi è crollato, no? Quindi, ma lei non potrebbe prevenirli, chiamarli e metterli in mora dicendo io vi ho chiamato, ditemi cosa devo fare. Ma non lo so, anche questo potrebbe... Io lo farei sinceramente per stare tranquillo, con il rischio certamente che le possano dire per pararsi anche loro le spalle, tutti fuori e quindi chiude, e questo è il problema. E non sa fino a quando. A questo punto le mie 10 persone le manderò a casa fino a quando, però... Fino a quando che poi non fallisco io, perché chiaramente non... No, guarda, io non voglio banalizzare il problema. Ne sento sulla pelle tutta l'impossibilità di soluzione. Lei deve continuare a lavorare, non può fermarsi, sennò chiude bottega e manda a casa 10 persone. E se lo fa lei e lo fanno anche gli altri, è un disastro inestimabile. Ieri le aziende più importanti di Bologna, ieri hanno lasciato andare a casa tutti gli operai, no? E forse qualcuno anche oggi, ma non hai un... A parte avere le spalle coperte o le... Sì, ma però fino a quando? Non si sa quando. Esatto, ho le spalle solide. Dico, a me va bene un giorno, due, tre, cinque, ma io penso che al decimo giorno già forse devo portarli in tribunale. Cioè, se tu vivi la giornata e ogni giorno non fai qualcosa, non hai una... Il paradosso è che uno dovrebbe avere una tenso struttura a portare i macchinari sotto la tenso... Dico per paradosso, sotto la tenso struttura e comunque continuare a lavorare in condizioni di sicurezza. Sarebbe l'unica cosa, considerato che c'è una stagione non brutta. Però è impossibile anche questo, però sarebbe forse l'unica soluzione in questo caso, certo. Per certe lavorazioni, non per tutte chiaramente. Io avverto solo questo stato di abbandono, cioè oggi l'imprenditore nella zona terremotata è abbandonato perché le decisioni le deve prendere sulla sua pelle, e questo non va bene. Con il rischio qualcuno gli dice perché hai preso questa decisione. È molto chiaro, grazie, fermiamoci un attimo per le informazioni del traffico, riprendiamo fra un minuto. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. (800) 24 0024, l'ultima telefonata dell'imprenditore, ha aperto un punto interessante secondo me, dalla viva voce alle esperienze vive lì. Un imprenditore che ha un capannone, che ha una piccola attività imprenditoriale, lui ha 10 operai, in questo momento non sa come fare. Il suo capannone sicuramente non è antisismico, un capannone degli anni 70, ma poi sfido chiunque a trovare capannoni antisismici in quella zona, ma anche in altre zone d'Italia. Immagino sia una spesa grossa, un'impresa ingegneristica di progettazione di spesa. Cosa fa? Nessuno gli dice cosa deve fare, i suoi operai vogliono lavorare, perché se si fermano vanno a casa tutti e si comincia a bloccare l'economia, che per molti in questo momento viene considerata un'emergenza ancora più grave che un terremoto, e si sfida la sorte, si sfida la fortuna, si mettono il caschetto, lasciano le porte aperte e vanno comunque a lavorare. Chiamare la protezione civile, è chiaro, se chiami qualcuno e lo investe il problema, quello per mettersi sicuro ti dice chiudete tutto, mettete i sigilli, andatevene a casa. E poi a questa domanda non so chi potrà mai rispondere. 800 24 0024. Graziano, buongiorno. Buongiorno, sono un volontario della protezione civile della Consulta di Bologna, alla quale è da domenica scorsa che stiamo correndo per assistere ai terremotati. Ecco, lei Graziano potrebbe aiutarmi a dare una risposta all'imprenditore che ha chiamato poco fa? Cioè, in che senso? Lui ha un capannone, con 10 operai sotto e fanno i tornitori. Nessuno gli dice nulla, il capannone degli anni 70, stanno in zona sismica. Non sa cosa fare, dice io cosa faccio, li mando a casa, se li mando a casa chiudo bottega. Lavoriamo col caschetto in testa, no, e le porte aperte. Deve cercare di, se trova qualcosa di veloce, di andarci dentro, poi dopo risistema il suo. Perché il sistema sicurezza, io sono dell'antincendio. Quindi come ho detto io, trova una struttura sicura e trasferiscili. Trova una struttura da entrare temporaneamente, ma si trova la struttura, perché io la conosco molto bene, quella zona lì, ci lavoro anche. Quindi i capannoni vuoti disponibili se ne trovo. Ecco, ma come mi spiega cos'è un capannone sicuro, antisismico? No, non esiste niente di sicuro al mondo. Solo la tenso struttura, la tenda. Cioè, tenga presente una cosa. Tre sono le situazioni critiche. Uno, il primo è il terremoto che l'abbiamo toccato con mano adesso, il secondo è l'alluvione e il terzo è l'incendio. Quindi il terremoto, il suo difetto è quello di venire senza preavviso. Quindi aspettiamo solo da un momento all'altro. Io era 20 anni che dicevo ma aspetto il terremoto, ma non so né quando, né come, né dove. Allora fermiamoci un attimo, Graziano. Marco, buongiorno. Marco, ingegnere e strutturista, forse lui può aiutarmi a rispondere a questa domanda. Sì, anzitutto lasciatemi dire che sono veramente emozionato per il fatto di occuparmi di queste cose da un po' di anni e sentire che queste cose succedono ancora oggigiorno. Io non ho sentito la trasmissione dall'inizio perché sono in macchina per lavoro e ho acceso solo da poco fa. Mi viene da dire che non esistono, è vero, le strutture garantite dalla sicurezza per sempre per qualsiasi evento sismico, però esistono una serie di presidi che si possono mettere in atto per limitare al minimo il... Ne suggerisca uno per farci capire, visto che è il suo ramo. Ad esempio, non sono stato ancora sul posto, non ho visto ancora le cose, ma quello che ho visto dalle immagini mi è parso di capire che in alcuni casi le coperture sono cadute dalle travi di appoggio. Esistono i presidi che sono delle barre d'acciaio, delle placche che si possono mettere su queste cose per evitare che caschino durante una scossa di questo livello che è forte ma non è devastante come terremoto. Conviene intervenire sulla struttura esistente o pensare proprio di inventarsi una struttura nuova, fare una grande tenda, lo fanno per i circhi, per i concerti, le tensostrutture in una situazione emergenza, non lo so. Quanti macchinari possono essere smontati e portati fuori in poco tempo? Cioè con i tempi che hanno gli imprenditori per rimettere in piedi un impianto che è già dentro, è difficile anche smontare un impianto e portarlo all'esterno. Quindi però il suo suggerimento potrebbe in qualche maniera... Il mio suggerimento è rivolgersi agli esperti della protezione civile, quando questi saranno presi o non avranno tempo per andare direttamente... chiamare dei tecnici, degli ingegneri di fiducia che si occupino di queste, che siano specialisti di queste cose e chiedere a loro un consiglio col cuore in mano e dire aiutami a mettere in sicurezza per quello che quindi si può in questo fare. Momento il personale che servirebbe al di là di tutte le altre figure professionali per i primi interventi sono ingegneri strutturalisti che diano immediatamente delle informazioni su come mettere in sicurezza le aree in cui si lavora. Raffaella Calandra, a te la conclusione dalla zona terremotata, dove sei in questo momento e dici cosa stai vedendo. Gianluca, sono ancora qui davanti alla fabbrica dove si stanno cercando i 3 operai ancora dispersi. Ho parlato con alcuni dei dipendenti di questa stessa fabbrica che hanno raccontato delle rassicurazioni che avevano ricevuto perché c'erano state fatte delle verifiche, delle perizie dopo il terremoto di una settimana fa. Una signora, Isa, che lavora in questa ditta da 25 anni, ci ha detto è come la nostra casa, per cui sono qui anche se non hanno loro dei familiari diretti tra i operai, che tutti giovanissimi oltretutto che stanno all'appello, ecco, seguono con la stessa angoscia tutte le operazioni adesso per l'individuazione di queste tre persone. Il senso di partecipazione dell'intero territorio, degli operai, erano tutti appena tornati al lavoro il lunedì. Devo interromperti Raffaella perché la sigla ci porta via e sai che ci sfumano. Grazie mille della tua testimonianza.